Now here's the dialogue in reception from the beginning. Salve. Lorenzo, thank you for the flowers. Ma è un piacere. I'm sorry I'm late. In ritardo? Perché? Che ora è? 9:10. Le 9:10? Ah, oh, non importa. Solo 10 minuti. Non è niente. Ok, then. Va bene. Allora, ha fame? Are you hungry? Oh, yes. Where are we eating? Mangiamo in albergo. Che ne dice? Il ristorante qui è buonissimo. Ok, then. Bene. Andiamo. Prendiamo l'ascensore. La sala da pranzo è all'ultimo piano. Va bene, andiamo. Lorenzo asks Sarah if she's hungry. Allora, ha fame? Because it's time for la cena. Dinner. They're going to the restaurant on the top floor of the hotel. While we're on the subject of eating, here's the verb to eat. Mangiare.